ti hanno detto di non andare avanti e di seguire il consiglio degli altri. Non provare di arrivare ai primi posti, seguire la legge non apporti, di non andare controcorrente, badare sempre al conto corrente, fare tutto politicamente corretto e non puoi entrare se non hai il biglietto. Farai tutto di testa tua, seguirai la tua idea, anche quando ti butteranno giù e gli altri non ti aiuteranno a tornare su. Ma tu credi in te stesso, aspira al successo e anche se a volte ti senti depresso, non pensare ai momenti brutti, perché un giorno spaccherai tutto e tutti. Lascia stare le poche view e non mi piace su YouTube, intrappolato come i The Cube, spacca il mondo come gli Who. E quando torneranno da te, per loro sarai il migliore, ma non ascoltarli perché sarai tu il vincitore. Non arrenderti mai e cerca di realizzare ogni tua pensata. La vita è un gioco, sai, rifletti al meglio su ogni tua giocata. Non farti dire mai cos'è la cosa migliore per te. Fanculo a tutti quando loro torneranno strisciando da te. Non arrenderti mai, non arrenderti mai, avvera tutti i tuoi sogni e non voltarti mai. La vita è una corsa, la vita è qui costa, la vita è una giostra, dai non scendere, non ti arrendere, per ogni situazione c'è la soluzione, ci affidiamo nei miracoli, è così che diventiamo sempre più fragili, ciò che non mi ammazza mi rende più forte, voglio vivere giocando le mie carte, accetti i consigli, ma imparo dai miei sbagli, e vado avanti non riesco a fermarmi, proseguo lungo la mia via e lascio una scia sulla mia corsia, affronta i tuoi problemi, fuori dagli schemi, sempre sinceri e fedeli. Voglio vivere al 100%, essere diverso, andare controvento, non perdere il tempo, stai attento, questo è il momento. E me ne fotto di chi se ne fotte di me, tornano solo perché faccio la roba col rap, lo scrivo e lo incido, ho deciso di badare a me stesso, tutto il resto lo butto nel cesso, un nuovo testo per dire quello che penso. A tutto c'è secondo fine, il pregio migliore è di chi scrive, non so cosa dire ma sfondo questo beat con un paio di rime. Non arrenderti mai e cerca di realizzare ogni tua pensata. La vita è un gioco, sai, rifletti al meglio su ogni tua giocata. Non farti dire mai cos'è la cosa migliore per te. Fanculo a tutti quando loro torneranno strisciando da te. Non arrenderti mai, non arrenderti mai, avvera tutti i tuoi sogni e non voltarti mai. Ti hanno detto che per andare avanti devi leccare il culo degli altri, ci vogliono sempre santi, lasciamo da parte i rimpianti, dai forza non lamentarti e vedrai che va tutto bene, sapere che è il loro potere. Finisce col nostro sapere, pochi amici, troppi infami, prima differente ora strette di mani. E stai sicuro che la gente ti infama, davanti ti abbraccia e dietro ti pugnala. Non farti dire mai cos'è la cosa migliore per te. Fanculo a tutti quando loro torneranno strisciando da te. Non arrenderti mai, non arrenderti mai, avvera tutti i tuoi sogni e non voltarti mai. Oh, oh, oh.